cioè parla anche a te. Sì, sì. Mi senti lontano? Boh, non lo so, non lo so, non credo di uscire basso, eh? Non credo di uscire basso. Comunque, mi faccio un ascolto a vedere, aspetta. Prova, ora, sì, prova. Prova radio, sì. Sì. Cosa avevi, l'RF chiuso? Ma già, a volte ti alzi di radio, a volte ti abbassi, ma tu hai qualche problema alle connessioni microfoniche in quella radio. Ma che radio stai usando? Sto usando un Midland 48 made in Corea. Adesso stai uscendo bene, adesso sei arrivato forte. Cosa hai toccato? Niente, ero in AM. Ah, ok, eri in AM. Adesso mi sta arrivando un po' bene, eh? Adesso mi sta arrivando bene. Ma sicuramente anche le altre volte quando arrivavi basso era perché eri in AM, dai. Probabile. Adesso ieri ne stavo sistemando un'altra. Perché gli ho messo anche gli adesivi di Superman. No, bugia dell'uomo ragno. Sta uscendo carina. Ah, quella lì all'interno, c'ha troppe schede, c'ha troppe schedine, infatti gli ho messo un antennino volante così e mi sembra che ci abbia il bip e l'eco, però non capisco da dove lo devo bloccare. Ah, ok, boh, non lo so, ma sempre un 48? Ehi, però questo è male in Thailandia, che è dell'83, mentre questo che sto modulando adesso è dell'85. Scritto nella targhetta dietro. Ho comprati dai primi, 40 euro l'uno. Sì. Però, boh. Ma vanno bene. Però dovresti avere qualche apparato un po' più, diciamo. Prenditelo invece del 48, ti prendi un superstar o qualcosa del genere. Sì, ma infatti allora la logica mia adesso era sistemare queste quattro radio che ho preso in un giro di stock, no? Adesso le sto tutte facendo belline con gli adesivi, questa che sto modulando adesso è rossa come quella Ferrari, l'altra è quella di Spider-Man, pone una bianca, quella è un 68S, 34 canali originale, ed è bianca con l'adesivo di Mussolini, con la scritta, una scritta, e poi me ne vendo tutte quante, poi me ne compro una bella o come quella di Franco, oppure a me mi piace un bello Iaesu, mi sembra che si chiama, con la rotellina, quello che gira, che so, è un bel costa però. Sì. E ti prendi un HF, ti prendi un Kingwood, dai, così puoi fare ascolto anche in altre bande. Ti fai una fauna, ti fai fare, non lo so, tu nel tetto spazio hai. Sì, spazio, a voi se ne ho spazio, sono qua io in mansarda, quindi il tetto è a 1,5 metri, 2 metri, oddio, ed è tutto libero e poi c'ha il quadrato che c'è al centro, che è molto libero, quindi lì posso metterla lì l'antenna grande, quella che devo piazzare, capito? L'ho fatto già al palo, da un metro, da 1,20 metri con le due gaffe laterali, perché sono in alto io, sono in alto come Franco, quindi prendo tutto il gol. Sì, ma non te l'ha ancora piazzata l'antenna? No, ancora non l'ho piazzata perché mio fratello Davide era impegnato, stava sistemando delle cose, poi con i figli, e capito, adesso Luigi mi sa che sono in chiesa, che è oggi domenica delle palme, quindi devono fare la comunione subito, quindi capito, è un po' lui, c'ha famiglia, capito, se no già mi avrebbe fatto tutte le cose che mi doveva fare, là. Già me le fa. Sì, sì, sì. Ma l'antenna, ma tu che cosa stai usando adesso per antenna? C'ho sempre quella, adesso non mi ricordo se si chiama Sirio Tandem, che è un metro e dieci, quella bastone. Ma antenna veicolare? No, antenna fissa, quella che rimane grossa, tipo il manico del martello. Ed è un metro, c'ha le due, la gaffetta con i quattro tastellini ed è tassellata al muro. Ah, ok. Ma piazza, fatela piazzare l'antenna, la 5 ottavi, così cambia tutto, Magari c'hai anche, ma stazionaria è controllato? C'ho quell'apparecchietto attaccato Alan K155 dove ci sono i VAT e l'SVR, ma a livello di SVR sono 1,2 più. A livello di watt mi segna 4 watt, 4 watt e 2, tu. Sempre se lo strumentino funziona bene, con il tastino a 10 watt. Sì. Ti prendo un bel... ma 48 già va bene, però ti prendo un microfono, se proprio Ether, ti prendo un microfono amplificato, un microfono da tavolo, e lo usi. E lo usi con quello e ti dà la modulazione un po' più forte e poi l'antenna, capito? Quindi piano piano fatti piazzare l'antenna e poi ti prendi, invece di comprare il radio al momento, prenditi un microfono amplificato, ti prendi un MB+4 anche da Fusaro che ce li ha e vedrai che cambia già tutto. L'antenna e il microfono amplificato ti fa cambiare già la modulazione. Ehi, KK, no, allora il microfono MB+4 ce l'ho perché l'avevo preso tipo usato, l'ho tutto fatto bello nuovo nero, però era montato su Jackson President e quindi ho messo i fili al 48, però deve essere che ho invertito o il nero con il viola o il viola con il nero, perché quando l'attacco si sente tipo la radio, proprio quando vado a modulare mi fischia e quindi poi ero stanco, non avevo voglia e la giumullato come si... Adesso una di questi chiude di nuovo lo riprendo e mi controllo prima il jack che ci va alla radio con i 4 pin, che sono volte che magari tiene qualcuno messo male, e poi controllo nella scheda. Però la scheda è nuova, non c'è niente, è solo una questione di cablaggio, che io quando non so come si può dire, come ha cablato originale, è un casino e visto. Però se il microfono è bello, è nero, nuovo adesso, perché l'ho tutto pulito, me l'ho fatto verniciare bene, c'è la targhettina originale, c'è il minuto originale, è tutto originale, però è una questione di filo, di treccia, che devo cercare di capire come sono messi bene i fili. Sì, ho capito. Fai in modo di usarlo. Guarda le connessioni, io se vuoi te le dico le connessioni, quali sono, se te lo vuoi fare. Allora, quelle che vanno alla radio più o meno, basta che copio i colori di un microfono originale, quindi sul pin della radio, i 4 pin, non c'è problema. Il problema era su perché era cablato diversamente, capito? Io ho trovato uno schemino originale su Google, infatti l'ho fatto così e è partito subito, però sicuramente i fili che ho io non hanno gli stessi colori dei fili originali, capisco, quindi magari ho invertito o il giallo col viola o viceversa, tutto lì, perché il giallo mio c'ha tipo la treccina anche e quindi non riuscivo a capire se era quei fili lì. Allora devi cercare la massa. Tu ti cerchi la massa del microfono, no? Ce l'hai il tester? No, adesso qua a portata di mano no, però già me lo faccio portare da Davide. Allora ti fai portare il tester e prendi e metti la batteria, allora metti la batteria al microfono, ti fai portare il tester e metti il negativo alla massa e poi filo per filo con l'altro capo cerchi, metti in portante il microfono e ti cerchi la portante, e quella lì sai già la portante e la metti al pin della, dove, dovrebbe essere il pin 2 nel 48, dovrebbe, o il pin, o il pin, o il pin 3 se non sbaglio, il PTT. Poi parti da lì, no? E ti cerchi la ricezione. Quando con l'altro filo prendi, una volta che colleghi la massa, che sai il numero della massa, e ti cerchi la ricezione. E l'altro è il microfono, obbligatorio. Un lavoretto a 5 minuti. Se c'hai il tester lo fai in 5 minuti. Capito? Insomma. E beh, col più 4, a parte fatto non stai col mic in mano, poi chi ce la puoi fare anche altra roba, puoi fare, dai, è meglio, con qualsiasi microfono da tavolo. Sì, e il Jackson, ma tu ce l'hai ancora il Jackson? Sì, ce l'ho, infatti devo guardare bene anche quello, perché, allora, l'avevo preso, quello l'ho preso da subito io. Avevo pagato forse trasferizione tutto 80 euro ed è grigio, bello, c'è il tassino dietro perché c'è, mi sembra che c'è 40 watt e poi non so che cosa, però sicuramente chi ce l'aveva prima ha fatto un mezzo casino nido, perché o sono io che non riesco a capire come funziona, perché l'altra volta c'era Franco sul 12 e io sul 14 e lo sentivo lì e mi ha detto mica forse c'è il tassino dei più 10 MHz, non so cosa, gli ho detto bufra, non lo so. E non volevo, è bello, c'è staffa, tutto, filo d'accensione, microfono originale President, però vuole controllare, sicuramente vorrà linea. Quello devi prendere, devi vedere un po' le funzioni, devi appentare. E devi vedere un pochino, come va. Purtroppo è così, ma adesso usati il 48, usa che già va bene, sei di quelli vecchi, già va bene. Il microfono da tavolo mettiti, è l'antenna, fatti piazzare l'antenna, così è, fa una voce battuti è fatta e non hai problemi. E infatti mi ha detto come ne esce questa settimana, che poi io no, questo tempo non lo comprendo più, a parte che con il mio problema della schiena e dei nervi, questo quando c'è umidità e freddo mi va giù come entra nella granata, mi va giù. E quindi come a buono al tempo mi sistema tutto quanto. Poi per quanto riguarda quella radio del Jackson e l'altra che ho, il 48, che quella c'ha, secondo me c'è un sacco di roba dentro, perché è tutto il modulatore, viene poco goccio. Allora c'è cosa faccio, le spedisco a Francesco Frammi, quello che c'è su, c'è anche su Facebook, è un signore anziano che era un ex poliziotto e ne sa un bel, le spedisco a lui e me le faccio mettere a posto. Anche se spendo quello che spendo, ma non mi interessa, almeno so che ho due radio più che sono buone. Così tutte le altre poi me le vendo, quelle colorate fatte belle. E poi mi compro quello, come hai detto, uno bello come quello di Franco, uno tutto quello di... E mi metto quello lì al centro, il Jackson ha una parte e l'altro ha la 48 tutto performante all'altra parte. Con due antenne, lascio questo antennino qua a bastone e lo uso con quelle due radiette, invece magari l'altra la uso con un tipo di filippa franco, cos'è, c'è un galaxy, mi sa che c'è, ma ecco che sono buone delle radio. Sì, sono buone. E a Franco già c'ha radio belle. Sì, così prendi e ti prendi un commutatore e fai quello che devi fare. Va bene così. Giova, faccio un attimo il QRT, devo fare cosa. Sentiamo dopo magari, tanto entrerà Franco, entrerà attivo pure. Ciao, a dopo. Ok, Gabi, non c'è problema, a dopo allora, buon QRT. Ci sentiamo più in là, prossimamente, dai, ciao. ciao, ciao, ciao, Gabi. Ciao, ciao. Allora, di nuovo operativi. Tanto oggi piove e dobbiamo stare dentro casa. Franco, Tino, chi siete? Franco, Tino, ci siete? E beh, e allora? Guarda la radio, sei buona. È buona? Sì. Sto usando Superstar, ho messo Superstar. Guarda come sta uscendo, sei meglio dell'Inco. No, con Superstar sono adesso. Come ho messo Superstar, guarda a vedere se è meglio del Lincoln oppure è peggio. Prova a cambiare, ma lo devi fare in diretta. È un casino, io non te la ricordi com'era, stavo usando ieri notte. Qua quando cambio la radio mi cambia anche l'orecchio. Ma sto dicendo, ma è buona, è chiara. Sì. No, ma sono io che ho qualche filtro inserito e non mi ricordo come cavolo si toglie, perché in banda ti sento male, c'è cioè male compresso, va, non è chiara. Mentre invece quelli in lontananza li sento benissimo. Non lo so più. Perché devi provare con 450. Vabbè, con 450 non ho toccato niente e ti sento bene, ma devo capire il perché sta facendo così qua, vuol dire che c'è qualche cosa che ho toccato che non mi ricordo, ora capito? Perché quella lì l'abbiamo fatta anche in ricezione per là, dai. Non vorrei che magari ha tenuto la memoria di là, non lo so, vabbè. Tu parla su, se vuoi provare su 5.5, così io provo a smaettare. C'è un bailano, un casino assurdo, tutto è inglese, non ce n'è, c'è propagazione però estera, non è favorevole per l'Italia. Prova qua in Unifor. Purtroppo sono in FM, purtroppo devi trovare un accordo per usare la radio. Se vuoi mettiamo i filtri di ricezione qua buoni, però poi come fai là? Guarda un pochino se in FM è buona. Prova frequenza modulata 27.105. Frequenza modulata. No, qua sì, a posto, qua sì, russo in banda, che forse abbiamo toccato qualche cosa. Ricezione, che cavolo se lo ricorda più. Di ricezione cosa avevamo fatto di là? Forse avevamo fatto il 12K avevamo toccato. Vai tu, ricordatelo, devi andare sempre nel menu e smanettare a cercare. No, perché gli altri da lontano li sento bene, in quell'altra banda dove va bene. Prova ad andare là sempre, in 48. Ok, vai. Tac. Prova ad andare là e... Cosa c'è? Perché sto trasmettendo qua? Aspetta. E perché, cosa sta succedendo qua? Allora ho schiacciato. Beh, aspetta. Qua sì. Adesso sono 27 anche. Sì, adesso ci sei, Adesso ci sei. Accendendo, ho schiacciato il box. Positivo. Comunque noi anche di giorno possiamo andare con il cimone a parlare. Sì, ma quello non c'è problema. È che... Porca miseria. Non so, vai, vabbè, qua ti sento bene. Prova ad andare di nuovo in 5.5 USB. Sto Franco è tutto sparito, ha vinto qualcosa. Ha vinto qualcosa, Franco. Ha vinto qualcosa. Sì, ha vinto un bel di soldi, ha vinto cose, caspita, non li vuoi sapere, a entrare in radio, boh. Sì, sono anche, sono anche in FM, sono adesso tutti e due. Eccolo! Dove? No, Franco proprio ha vinto soldi, non ce ne vuole dire. E cavolo, cos'è tirchio? No, non è tirchio, ha paura che lo sequestriamo. Vabbè. Tanto Fra, guarda che anche se ti sequestriamo e ti porto qua in campagna, non è che non ti trova nessuno, quindi non avere paura a prendere a dire se hai vinto il soldi. Non vogliamo niente, già ci lavoriamo. Franco, facci sognare. Aspetta che alziamo un po' il carrier. Fra, non vogliamo niente, non ne vogliamo, ce ne lavoriamo i soldi. L'importante è che stai bene tu. No, io già li voglio se me ne dai. E anche io, va. Ma fai il tirchio, Fra, per favore. Lo vedi, poi è vero, quando diventi ricco vedi che poi la gente non la cerca, la snuffa. Purtroppo è così. Quando poi diventi ricco, ha buttato la radio dal secondo piano. E ha piegato l'antenna dopo l'averla piazzata. Sì, l'antenna per un ricco. Chiamato di Zingari, venite a prendersi l'antenna perché non gliene do a nessuno di roba mia, ci ha buttato tutto. Ed è diventato ricco. Va bene così. Contenti per lui. Carissimo Tino, contenti per lui. Caspita, stamattina ho le 8, Stamattina mi sono svegliato alle 8. Bella fine. Allora, stamattina mi sono svegliato, sì, presto anche io, però poi mi sono ributtato e ho continuato un'oretta ancora, poi mi sono alzato, ho fatto doccia, barba, sbarbato, sono uscito poco fa. Hai fatto un'altra cala? No, ho dovuto uscire per forza, perché non c'era acqua nei ponti. No, sto dicendo, dopo ti sei alzato presto, poi hai deciso di fare un'altra cala, sei passato, sei un po' acido, hai messo le reti un po' acido, poi sei rientrato, va bene lì. Sì, ma per forza, perché ho detto, se devo andare, devo andare riposato. Se devo affrontare riposato, sì. Ma comunque, speriamo che ti chiami, così. È pagata Roma stessa, va bene. Sì, un attimino che devo controllare una cosa, entro subito, scusami. Vai tranquillo, vai. Oh Tino, dimmi. Provo a sollevare ancora il livello microfonico, aspetta che entro nell'applicazione della scheda audio. Vai. Allora dimmelo di là se va a strappare o cosa. Guarda, aumento un po' il mic gain e vediamo un pochino cosa fa. Guarda a vedere, troppo forte, va bene? Guarda quanto posso aumentare. Guarda un po', e la ola. L'ho aumentato ancora, guarda a vedere, la radio è sempre buona, che sia chiara, Guarda a vedere adesso, è più forte o è più, non è rimasta invariata? Ok. Ma è sempre una modulazione reale oppure tipo CB o roba del genere? Ok, perfetto. Allora la lascio, è buona, è accettabile? Nella voce. Prevalente della private practice in Disneyland Toplevon. Se per circa 3 giorni da prassi. Yes, quindi la lasciamo così la radio, andava bene, se è forte la lasciamo così, cioè forse è più presente la lasciamo così. Sì, va bene. Ok, l'importante che sia forte al naturale, ora. Va bene, Gavi, va bene. E Franco non è entrato ancora. Ma Franco non entra. Oioioia. Cosa abbiamo di buono? Non lo so, oggi sono a rimorchio, quindi. Mia moglie ha fatto i cannelloni. Ieri mattina ho preso la ricotta e buona, da fino, una rivincita di Porto Torres. Ha un sapore qua. Due ce n'è così buone. quella, cioè, io prendo o quella di Ittiri o quella di Fino, che c'è qualcosa a Monterraso qua. Ah, no, qualche giorno andiamo per quella salsiccia là, la voglio assaggiare. È che di sabato è aperto, Di sabato è aperto, sì, è aperto. A saperlo, sarei passato anche stamattina. E oggi è domenica e delle palme pure. È vero, ho perso la cognizione del tempo. Ho perso i sentimenti. Aspetta che ti faccio una foto un attimino. Tu hai già dato più, ho già dato quello, temporali, tempeste, invece, nuda. Non mi sono messo a fare niente fuori. Mi potevo prendere e mettere benissimo a passarmi il rasaerba. Ma vediamo dopo pranzo, dai. Ti ho mandato una foto, guarda, trova le differenze. Sì, è vero, oggi, così, doveva piovere a quanto si dice. Un sacco sgonfio. C'è questo sacco qua che Nicolas l'ha abbandonato, porca miseria, e lui si è messo a fianco. Un sacco sgonfio. Sì, qua hanno dormito tutti e due dentro stanotte e sono usciti fuori alle 8:15 del mattino e sono tutto il giorno sconvulsolati, perché in genere sono abituati a uscire presto, no? E a saburieti da zinco di manzana, invece oggi sono usciti alle 8 soltanto a cuccia drumidi. Sì, ma anche lui vabbè, mi ha chiamato perché doveva fare bisogno per farlo uscire. Viene, mi sveglia, no, e lo faccio uscire, poi se ne ha voglia rientra, se no già rimane fuori insieme agli altri. Sì, vabbè, no, anche loro una volta che escono rimangono fuori, perché si bagnano, fanno, si bienano di terra e poi a entrare se ne parla quando li pulisco, perché se no, perché arriva, se non sono detti della tua casa non entrano, soprattutto fine settimana, perché mia moglie anche lei ha diritto di riposarsi. Allogai. Lascia vedere un attimino. Sì. Allora. Franco non c'è, quindi mi sa che tocca chiamarlo al telefono. Ma magari quello, magari c'ha gente. Magari ha gente, no. O è andato a camminare. Perché sta andando a camminare la mattina? Ah sì? Beh, meglio così, dai. Sì, almeno si rende, almeno fa qualcosa. Ha detto che fa qualcosa così, che si stava annoiando. E pare così, però quando una volta che sei in pensione, che prendi, non sai cosa va, uia. La giornata è dura a passare. Diciamo di sì, dipende come la prendi lui. Dipende come la prendi lui. Cos'è? Sto cancellando delle foto che non mi interessano, mi sta incasinando un po' il telefono. E anche io intanto prendo, cancello un po' di roba, quelle che non mi riguardano. Ma se no, non è meglio compresa, No, ma anche perché mi hanno fatto tanti video che quando è andato in Kenya, voglio dire, non mi interessa, ormai li ho visti, quindi non me ne frega più niente di averli, e sono anche lunghi, perché ce ne sono un minuto e mezzo, due, da 1:08, insomma, e sto andando e cancellando adesso, così almeno pulisco un pochino, ma una volta cancellati li devo togliere anche dal coso dal cestino, vero? Sì, aspetta, che mi ascolto, aspetta. Hola, ehi. Allora, qua sono in uniforme, se era bravo ancora. Oh, yeah. Hola, ehi, prova. Ok. Sì, devi toglierli dal cestino. Ah, ok. Qua ero l'ultimo intervento che ho fatto con un Nissan, dove avevano sequestrato a De André e a la moglie di Montesigiamma, si chiamava. come te, Patty Cresci, Cati Cresci, così era. No, aspetta un attimo, Mari, come si chiamava? Dorighezzi. Dorighezzi, sono andato lì a fare un intervento e i fontanini mi hanno detto queste cose qua. Infatti ho fatto un video, effettivamente era una zona proprio 7 km di fuori strada ho fatto. Sì, Dorighezzi, no Patty Cresci, questa è Patty Smith, questa è quella che stavo dicendo io. Dorighezzi, Dorighezzi. Adesso c'è il figlio, c'è il figlio, attenzione. Quando non è cotto. Vabbè, ma quelli sono dettagli. Come babbo, come il babbo. L'andrebbe beva, eh? Sì, ma sono dettagli quelli. Tutti beviamo. Tutti, però loro già. Diciamo che era un vizietto di quelli giornalieri. Va bene così. L'hai mai vista la vita di Andrea? No, per la verità no. Immersa nel verde, bella, bella, bella, bella. Toga. C'è chi può. Purtroppo io non può. Neanche io può. Così. Cosa vuoi farci? Siamo nati per lavorare. No, siamo nati poveri. E moriremo ancora più poveri. Fidati di me, di quello che ti sto dicendo io. Siamo nati poveri. Per lavorare moriremo ancora più poveri. Uioia. Comunque questa frequenza è sempre più vuota, eh? Questa frequenza è sempre più vuota e... Io mi meraviglio. Se non le volete in radio, ditecelo dove ce le compriamo. Ui, lascia perdere. Ora ho finita quella benda, sta bene. Adesso infatti sto cancellando tutto perché non mi interessa più niente. Finita, mai provata, quello, perché tanto finita è abbandonata lì, per carità. Quello è giusto per impegnare. Magari capita qualcosa che dovete usarla. Mandami la foto domani finita. Sono appena cancellata, devo recuperarla. L'ho appena cancellata. Perché sto cancellando questa cacca di... Aspetta, se riesco a recuperarla te la mando. Ma fuori di dire, me la mandi domani, gliela rifai, gliela mandi se te ne ricordi. Me la mandi se te ne ricordi. No, perché l'ho parcheggiata da una parte, non viene bene, aspetta, tanto la trovo subito. Yes, va bene. Aspetta, se mia moglie paga qualcosa da bere. Fai un giro, fai. Cosa prendi? Questo là, un Camparino. Oppure un Cardinale, dai. Buono, Campari a Kenta, già è buono. Campari a Kenta già è buono. Riesci a vedere se mi paga qualcosa da bere, se no gliela pago io. Tanto mi può avere dudirchia. Conservatrice! Beviamo tutti insieme. Ma l'hai fatto fuori tu adesso o cosa? Franco, ma davvero non entri. Ma sei diventato veramente ricco.